e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cara Nicoletta, buongiorno a te, naturalmente buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo. Questo ultimo scorcio di luglio. Anche Carmelo Raricella che regia la parte tecnica, è tutto pronto? Sì, e allora esatto. Noi possiamo anche iniziare. Anche perché, esatto, anche se luglio è agli sgoccioli, in realtà le notizie sia di salute che di finanza non ci mancano, fioccano. Per cui non indugiamo oltre, si parte. E noi apriamo la nostra rassegna stampa con il documento sui vaccini presentato dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, che suona come una presa di posizione molto netta nei confronti dei medici che non sostengono, addirittura si oppongono ai vaccini. La situazione nel nostro paese, lo sappiamo bene, è critica, ne abbiamo parlato diverse volte, vi invitiamo anche a riascoltare le interviste che abbiamo messo sulla pagina di Cuore Denari. In ogni caso dal 2012 ogni anno 3.500 bambini in più mancano all'appello dei vaccini obbligatori e ben 10.500 a quello dell'immunizzazione contro morbillo, rosolia, orecchioni. Secondo i dati del Ministero, fino al 2012 c'è stato un plateau nell'andamento delle vaccinazioni, ma da quella data è iniziato un inesorabile calo, sempre più marcato. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Roberta Chersevani, che è presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Grazie per essere con noi, per aiutarci a fare un po' di chiarezza. Per il medico che sconsiglia le vaccinazioni avete previsto delle sanzioni molto severe, sino alla radiazione. Ma dottoressa, questa misura, che è indubbiamente molto appeal mediatico, è stata ripresa da tutti i giornali, e ne parliamo infatti anche noi, credo che risolverà solo in parte il problema. Insomma, ci vuole altro di una radiazione per ricostituire una cultura in questo campo. Io credo che ci vuole molta informazione chiara, diretta, che possa chiarire i dubbi che genitori possono avere o persone adulte possono avere nei confronti dei vaccini. Ci vuole un'informazione che faccia capire, prima lei portava i dati del Ministero e questo calo preoccupante, ci stiamo avvicinando a un valore soglia che può portare a rivedere nel nostro paese malattie che molti di noi non hanno mai incontrato, proprio perché sono state debellate in tempo utile dai vaccini. Rischiamo di ritrovarci con la polio, rischiamo di ritrovarci con la difterite. Questo è un problema serio e le persone forse non si preoccupano tanto perché sono malattie che non si conoscono, che non hanno mai, di cui non hanno mai sentito parlare. L'informazione credo sia il portare a conoscenza di questa realtà dei vaccini, di come vengono fatti, di come sono sicuri, di come i controlli sono molto stretti, perché si tratta di somministrare un farmaco a un soggetto sano, non è la persona che è ammalata e gli dai un farmaco di cui ha necessità. In quel momento tu stai prendendo una persona sana e gli offri la prospettiva di non ammalarsi di una malattia che potrebbe avere gravi, gravi ripercussioni sulla sua salute. Gli offri un prodotto che lo renderà immune, vaccinato. Deve essere per forza un prodotto sicuro. E questo è un messaggio che deve essere molto ben chiarito. Sì. E io chiedo anche la vostra collaborazione. Noi organizzeremo, abbiamo fatto un bellissimo convegno sui vaccini il mese scorso qui a Roma, ed era una cosa molto scientifica ovviamente per gli addetti ai lavori. Quello che vorremmo organizzare in autunno è un analogo convegno, ma che vede anche la popolazione, coinvolgendo cittadinanza attiva, coinvolgendo federanziani e la stampa e i media, perché voi siete una cassa di risonanza molto importante, proprio per far capire che se mi vaccino mi proteggo da quella malattia. Ed è un bene sapere che ci sono delle malattie dalle quali ci possiamo proteggere. Fosse così per tutto sarebbe bellissimo. C'è poi anche l'effetto gregge, dottoressa Chersevani, che va comunque... Molto importante, perché noi guardiamo la salute del singolo, ma dobbiamo anche guardare la salute della comunità, e questa comunità, se è protetta, può contenere al suo interno soggetti che per loro malattie, per loro alterazioni dell'apparato immunitario, per le loro difese non possono essere vaccinati e quindi sono quelli a rischio. Ma se sono circondati da soggetti vaccinati, quindi privi di una possibilità di malattia, sono protetti. E questi bambini sono bambini magari con forme di leucemia, ci sono delle malattie che controindicano assolutamente i vaccini e questi hanno bisogno di essere aiutati. Dottoressa, io vorrei leggerle i messaggi che stanno arrivando al via WhatsApp al 349-238-6666. Lei ha detto giustamente che bisogna fare informazione, parlare alle persone, raccontare e spiegare. Ad esempio, un ascoltatore scrive: mi chiedo come mai si insista con malattie come il morbillo, io da piccola l'ho preso senza problemi come tutti i miei compagni di scuola. Viene naturalmente anche il messaggio non firmato di un ascoltatore che dice che è tutta una questione di business, e un altro ascoltatore scrive: mia sorella è morta a causa della vaccinazione per il vaiolo, le vaccinazioni fanno bene soprattutto alle case farmaceutiche. Dottoressa, allora iniziamo dal business, partiamo dal business. Allora, i dati che io ho potuto raccogliere per quanto riguarda il costo dei vaccini, posso dirle che il costo dei vaccini paragonato ad altri tipi di farmaci è basso. Se ricordo bene, c'è un dato di spesa riferito, credo, al 2014 di 250 milioni di euro per i vaccini, e questo dato è al di sotto del quinto antibiotico più venduto. Quindi, se dobbiamo parlare di business, se dobbiamo parlare di liaison di tipo economico, direi che non è questo il caso, assolutamente. Questo lo sente anche in altri settori, voglio dire, certo, al di là di sempre quello della federazione, che ovviamente la federazione si interessa sia a tutto, ma potrebbe non avere tutti i dati certi. Dire che il morbillo sia una malattia così banale, non lo so, perché io ho una sorella che in seguito, grande ormai, ma che in seguito a un morbillo, perché allora le vaccinazioni non c'erano, si è sviluppato uno strabismo che le ha condizionato di molto l'esistenza. Il morbillo ti può portare ad avere delle complicanze molto serie. Perché pensare che sia bene avere una malattia esantematica? Sono ragionamenti che si facevano ai tempi nostri, miei, ma io sono più grande di voi, quando tutto questo non era in discussione. Ci scrive naturalmente il padre di un ragazzo disabile, reso disabile dai vaccini, lo afferma perché ha le prove mediche, ma il governo non vuole farsi carico di danno da vaccino anche quando questi si manifestano. Lui dice che non è contro i vaccini, mi scusi, ma contro le vaccinazioni a tutti i costi. Perché il figlio è stato vaccinato in un momento di non perfetta salute, aveva un'infezione intestinale e il pediatra l'ha vaccinato lo stesso. Approfitto della sua disponibilità, dottoressa Chersevani, proprio per rispondere a tutti questi messaggi che aiutano, immagino, anche a fare chiarezza. Allora, sicuramente per i vaccini somministrati c'è comunque una scheda, voglio dire, c'è un controllo nella preparazione, nella somministrazione e nel dopo somministrazione. Sono dati che vengono raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità, e sentivo recentemente il professor Ricciardi che proprio ne parlava, credo che su oltre 9 milioni di vaccinazioni, che era il numero che mi stava dando in quel momento, ma potremmo sentire lui per avere un dato più preciso, i casi segnalati di complicanze sono rarissimi e lievi. Poi chiaramente non conosco la situazione di questo bambino, ma sono tutti aspetti che possono essere controllati, perché sono aspetti che vengono registrati. Allora, dottoressa, un altro problema che divide i genitori è il calendario vaccinale, no? Che viene spesso messo in discussione, e poi anche il caso dell'esavalente, le vaccinazioni obbligatorie sono 4, ma ai bambini viene somministrato un vaccino che ne copre 6. Anche in questo caso, questo aspetto fa sorgere dei dubbi e accende delle polemiche. Qui non ci rendiamo conto che il bambino gode di una immunità che gli ha trasmesso la mamma e che soprattutto è valida se poi c'è stato un po' di allattamento per un brevissimo periodo. Dopodiché il bambino rimane assolutamente scoperto. Il rischio che facendogli il vaccino si possa ammalare di quella malattia non esiste, perché sono vaccini attenuati, sono vaccini che hanno una piccolissima quantità di antigeni, quindi sono vaccini che non possono dare la malattia, ma dare solo l'immunità, e a questo punto il bambino sviluppa una sua immunità, quindi una sua difesa che lo coprirà per il resto della sua esistenza. Noi diciamo i 4 obbligatori e gli altri 2. Pensi che la pertosse il vaccino della pertosse che è inserito all'interno della esavalente e che non risulta obbligatorio, ma in realtà bisognerebbe togliere questo termine tra obbligatorio e non obbligatorio. I vaccini sono utili, i vaccini vanno fatti. La pertosse è un problema che porta a morte piccoli bambini che non hanno avuto questo tipo di trattamento, perché la pertosse noi non ci rendiamo conto, ma è ancora presente ed è presente in quegli adulti che non sono stati vaccinati da piccoli. Recentemente a questo convegno c'era proprio una collega dell'ospedale Mayer, che è l'ospedale pediatrico di Firenze, che portava dei dati sui lattanti che arrivavano con la pertosse in atto, ed è un problema perché il bambino con quel tipo di coinvolgimento polmonare ha grandissime difficoltà a essere recuperato, per poi verificare che era proprio la mamma che lo accompagnava, che era lei malata, sembrava una tosse normale, aveva quindi pertosse. Sono situazioni che è come dire, c'è a disposizione qualcosa che ti consente di non ammalarti, perché rinunciare a questo? Non riesco a capirlo. Allora, perché molti genitori, e un ascoltatore lo scrive, pensano che chiedono se il bambino, se è vero che fino ai 3 anni il sistema immunitario del bambino è molto instabile. Molti genitori pensano, ma poi con questo bombardamento di vaccini si possono creare dei problemi, così raccogliamo tutte le domande. Deborah è un po', mi guarda no, un no, po' perché sconvolta, vedo ma, che con grande intelligenza, con grande onestà intellettuale stiamo mettendo sul piatto tutte le criticità che mediamente vengono sempre fuori, e perché tutti coloro che pensano che spesso censuriamo anche le domande o le considerazioni scomode, come vedete no, qua non c'è nessuno, esattamente dottoressa, certo, grazie, bisogna parlarne, bisogna capire. Diciamo che la disinformazione viaggia più velocemente rispetto all'informazione corretta, e parte di quel documento che noi abbiamo presentato ieri, che peraltro è stato approvato da tutti i presidenti degli ordini dei medici, si rivolge anche a cercare di proporre l'informazione corretta. Io chiederò al Ministero che vengano fatte delle campagne di stampa, perché sono notizie che arrivano e che le persone ascoltano, e siano più più estese, più disponibili rispetto a quei dubbi e a quelle informazioni non corrette che trovano spazio. Adesso con i nuovi LEA, con i nuovi, le nuove possibilità di prescrizione dei livelli essenziali di assistenza, sarà inserito anche il piano vaccinale ultimo, quello che è 2016-2018. Questo sarà molto interessante, perché metterà a disposizione delle persone i vaccini che noi siamo riusciti a creare, certo, perché questo fa parte della ricerca, per cercare di omogeneizzare su tutto il territorio nazionale la disponibilità. Questo è un altro percorso utile. Dottoressa, noi stiamo vivendo anche questo problema. Dottoressa, tornando al sistema immunitario del bambino, instabile, quindi può essere in qualche modo aggredito. Ma questo discorso instabile, aggredito, la quantità di antigene è infinitesima, ha soltanto lo scopo di stimolare le difese, non può creare altre problematiche. Io vorrei che tutti questi casi di cui si parla veramente venissero quantificati per vederli, cioè, perché poi diventa ancora una storia, no? Parliamo questo, tiriamoli fuori, perché questi casi, se ci sono, devono essere studiati, analizzati per essere evitati. Esatto. Dottoressa, grazie per essere stata con noi, ci sentiremo sicuramente presto. Buona giornata, grazie per il vostro impegno. Noi andiamo Buon a sentire lavoro. Che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, ci ritroviamo subito dopo. Cuore e denari. Siamo tornati insieme e continuiamo a parlare di vaccini, di uno in particolare che una meta-analisi promuove a pieni voti, quello contro il papillomavirus, noto anche con la sigla HPV, un virus che possono incontrare le persone che hanno una vita sessualmente attiva, dato che si trasmette soprattutto attraverso i rapporti sessuali o il contatto con mucose e cute, ma da cui per fortuna ci si può difendere anche in modo molto efficace. Ma andiamo per ordine, iniziamo con una carta d'identità e la facciamo insieme al dottor Luciano Mariani, ginecologo-oncologo, responsabile dell'HPV Unit dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Regina Elena di Roma. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Buongiorno. a lei, grazie. Allora, mi aiuti in questi pochi minuti a fare una carta d'identità. Nome, papilloma virus, anche se bisogna precisare che non è corretto parlare di HPV al singolare. Ad oggi, infatti, sono stati identificati oltre 100 tipi diversi di papilloma virus e non tutti sono ugualmente pericolosi per la salute. Esatto. È una grande famiglia di virus che viene distinta sostanzialmente a basso rischio e ad alto rischio, cioè in base alla potenzialità che hanno di poter determinare quella progressione di eventi che va verso il cancro. Quindi la minor parte sono a basso rischio e sono quelli che possono determinare la condilomatosi anogenitale, per esempio. Sì. E quelli ad alto rischio invece hanno la potenzialità di provocare il cancro non solo sul collo dell'utero, che è l'elemento principale, poi il target principale, l'obiettivo della vaccinazione, ma anche tutto il resto dei cancri HPV correlati, perché sono una quantità, vulva, come vagina, ano, cavorale. Cavorale, una parte considerevole di quella del cavorale. Quindi è un arcipelago di patologie oncologiche legate all'HPV. Allora, la maggior parte delle persone con una vita sessuale attiva, dottore, incontra sì. prima o poi il papilloma virus, no? Sì, sì, certamente. Ecco, anzi, quindi, diciamo che è quasi inevitabile. Quasi inevitabile. Allora, esatto. Secondo i dati di Epicentro, che è il portale di epidemiologia sì. dell'Istituto Superiore di Sanità, fino all'80% delle donne sessualmente attive contrae l'infezione e il picco proprio di prevalenza si raggiunge nelle donne più giovani, fino ai 25 sì. anni di età. Però bisogna sottolinearlo, lo diamo come una buona notizia, è che non tutte le infezioni sono destinate a dare origine a un tumore nel corso degli anni, anzi la maggior parte, incluse quelle che potenzialmente potrebbero favorire sì. lo sviluppo di un tumore, viene eliminata e tutto questo è merito del nostro sistema immunitario, certamente, che riconosce il virus e come sì. estraneo e cerca le strategie migliori per sbatterlo fuori. Lei consideri che l'80% della popolazione femminile prima o poi viene in contatto con questo virus, ma ci sono meno di 3.000 cancri ogni anno, quindi questo vuol dire che c'è un effetto di regressione spontanea straordinariamente importante. Allora, dottore, però vogliamo anche parlare dei casi in cui il sistema immunitario esatto. non riesce a sconfiggere l'HPV esatto. e l'infezione può diventare cronica. Allora, sì. ci aiuta a capire quali sono i sintomi, i segni da conoscere e riconoscere e quindi da riferire al medico perché potrebbero essere spia di un'infezione? Allora, assolutamente nessuno. Questa è la particolarità di questa infezione. Questa infezione passa assolutamente asintomatica, silente sì. totalmente. E questo, come dire, pone l'accento sulla necessità di fare dei controlli, esatto. ovvero sia di fare in primo luogo la vaccinazione, proprio perché passa non solo silente alla consapevolezza della persona, ma silente anche in quanto riguarda il nostro sistema immunitario. Talvolta il nostro sistema immunitario non si accorge nemmeno che sta andando avanti questa infezione. Questa infezione trova il modo per convivere nascosto, diciamo così, tra le pieghe, per esempio, del collo dell'utero, e lì diventa cronico, come diceva lei, cioè persistente. La persistenza è un elemento di rischio per il cancro del collo dell'utero. Allora, senta, dottor Mariani, dato che abbiamo aperto con la posizione, no, il documento sì. che la Federazione, non so se ha sentito la prima parte, e abbiamo dedicato questa prima mezz'ora di Cuore Denari alle vaccinazioni, e gli ascoltatori, come sempre, intervengono per portare il loro contributo, le loro perplessità, dubbi e quant'altro. Allora, sì. proprio sul papilloma virus, un ascoltatore ci scrive che forse non siamo al corrente di tutti i problemi che il vaccino papilloma virus ha causato alla giovane popolazione inglese. Di che cosa sta parlando il nostro ascoltatore? No, assolutamente nessuna idea. Cioè, guardi, a proposito di disinformazione, come si parlava prima, e sul fatto che questa viaggia a una velocità straordinariamente importante. Allora, noi ci rendiamo conto che al momento sono state erogate più di 250 milioni di dosi. 250 milioni di dosi in tutto il mondo. Tutto il mondo occidentale industrializzato vaccina in età adolescenziale o in età anche adulta, e abbiamo già dei dati estremamente importanti di riduzione della patologia HPV correlata. Certo che, siccome è un atto medico la vaccinazione, bisogna fare un rapporto tra i benefici e gli eventuali effetti collaterali, che sono estremamente minimi, sono così minimi che per questo vengono amplificati a livello di disinformazione, per darne un'immagine che non hanno assolutamente. Questo dobbiamo essere tutti assolutamente forti nella filiera dei professionisti, e qui metto anche le informazioni, quindi anche i giornalisti. Dobbiamo fare barriera, fare fronte comune contro questi elementi di disinformazione. Basta un elemento negativo che viene a cadere la fiducia nei confronti di questo vaccino. Dottore, ci scrive anche naturalmente se anche l'uomo è a rischio di infezione e se potrebbe vaccinarsi. La risposta è sì, stiamo parlando di giovani uomini, ma poi anche l'uomo adulto può essere a rischio di infezione. Allora, l'infezione da HPV è per definizione la malattia sessualmente trasmessa più frequente e diffusa nel mondo. Detto questo, è evidente che anche l'uomo non è solamente un trasmettitore alle partner dell'infezione, ma esso stesso si ammala. E quindi c'è il cancro del pene, il cancro dell'ano, il cancro dell'orofaringe, molto in aumento questi ultimi due nei paesi industrializzati. Quindi, e poi c'è un principio di equità. È chiaro che se le adolescenti fino adesso hanno goduto della prevenzione, le dodicenni parlo, del vaccino HPV, anche il maschio deve poterlo fare. Ed è questo è stato il messaggio importante del ministro, quello di aver inserito anche il maschio nel programma di vaccinazione. Dottore, un'altra domanda: quanti anni di incubazione ha, per così dire, questo virus? Ci scrive Anna che si è votata la castità da qualche tempo, ma continua a fare il pap test, i controlli vanno comunque sempre fatti. Allora, il voto della castità è un atto del personale, Anna, certo, non può essere preso come, certo, come dire, un programma di prevenzione. Allora, una delle altre caratteristiche di questo virus è che può rimanere in stato di latenza per qualche decennio e manifestarsi verso, c'è un secondo picco oltre quello che lei ha detto dell'età, in età adolescenziale, e cioè che è vicino alla menopausa. Allora, una parte perlomeno di queste nuove infezioni che si manifestano in età menopausale, intorno ai 50 anni più o meno, sono probabilmente il retaggio di infezioni acquisite in età di adolescenza e rimaste in silenti, stato di latenza, certo, latenti lì dentro per 30 anni magari. Allora, però per scovarlo, pap test o HPV test? Assolutamente HPV test. Ora, lei sa che lo screening... abbiamo proprio 30 secondi, dottore. Allora, screening si farà con l'HPV test perché è più efficace del pap test. Questo non significa che il pap test non abbia una sua utilità. È stato straordinariamente importante. Certo, ma uno non di meglio. Grazie, dottor Mariani, per essere stato con noi. Noi andiamo a sentire il nostro GR e portiamo subito dopo, parlando di ossa sane, come renderle tali e come mantenerle tali. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io allora, posso Deborah. Fare. Eugenio Finardi. Sì, ascoltare la radio. Fa bene. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, senti e bene, parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente. E soprattutto la radio piace, ma soprattutto secondo me migliora la vita. pensa rispetto alla TV, no? La TV sei lì bello davanti alla sul tuo divano spaparanzato, sì, fermo. La radio la puoi ascoltare anche in movimento, no? Ti porti dietro le cuffiette, vai. Quante persone scaricano i nostri podcast e sono disperati quando non li trovano pronti lì all'uso, se li portano mentre corrono, fanno running, quindi, insomma, doppia cosa, no? Doppio vantaggio, ascoltano noi, si muovono e salvano anche le loro ossa. Salutiamo gli amici in movimento, allora, magari che porteranno questo file con sé, no, in una prossima corsa, in una prossima maratona. Allora, e salutiamo anche la nostra ospite, la professoressa Daniela Lucini, che è tornata a trovarci. Buongiorno. Grande amica di Cuore Denari. Noi andiamo bene, grande ascoltatrice della radio, associata all'Università di Milano, responsabile della sezione di medicina dell'esercizio all'Humanitas. Allora, professoressa, abbiamo scherzato un po' su radio e TV. D'altra parte l'abbiamo fatto prendendo spunto, come sempre, da una ricerca che è stata appena pubblicata, una ricerca australiana che ha seguito bambini e adolescenti fino a 20 anni e ha dimostrato che la TV rende le ossa fragili. La spiegazione è semplice, perché la sedentarietà è un fattore di rischio per lo sviluppo dello scheletro. Verissimo, verissimo. Quello che ha fatto questo studio è stata una cosa molto, molto carina, soprattutto perché ha seguito nel tempo questi ragazzi ed è riuscito proprio a dimostrare come, quando una persona, soprattutto una persona nella fase in cui sta crescendo, sta sempre ferma, sta sempre seduta, che sia guardare la TV, che sia giocare al computer o fare altro, fa un danno alla propria salute e in particolar modo questo studio si focalizza sull'aspetto osseo, perché quello che succede è che viene a mancare una delle cose principali per lo sviluppo osseo, che è proprio lo stimolo. Quando una persona si muove, quando una persona fa attività fisica, questa è la cosa più importante per dire al nostro osso: tu devi crescere, tu devi rinnovarti. Noi pensiamo che le ossa siano delle cose come se fossero dei sassi, no? Delle cose che un non po' sono è vero, vive. Sì, è così. Non è vero. No. L'osso è vivo, è come se fosse un muscolo, come se fosse la nostra pelle, nel senso che le cellule del nostro osso muoiono e vengono formate ancora. Quindi questo, diciamo così, rinnovamento osseo è la cosa più importante per far sì che l'osso cresca bene e poi, una volta che è cresciuto, continui a rimanere bello, diciamo così, solido. Quindi l'attività dell'osso, il metabolismo dell'osso deve avere un bilanciamento positivo, cioè devono essere di più le cellule nuove che vengono fatte rispetto a quelle vecchie che vengono distrutte, diciamo così. Ma professoressa Lucini, allora muoviamoci, concentriamoci sui nostri bambini. C'è qualche attività oltre alla caccia dei Pokémon che in questo periodo sta popolando? Esatto. Che possiamo consigliare? Della quale io non ho capito un bel nulla. Ieri ho provato a farmela spiegare, ma devo dirti che ancora bisogna essere svegli. Io anche non ho capito nulla. Ma professoressa Lucini, ai bambini adesso estate, giocheranno finalmente all'aperto. Le vacanze sono sicuramente un'ottima occasione per invitare i nostri bambini a muoversi. Tra l'altro sono i più morbidi d'Europa. Quale attività? Basta il gioco? Quale? Allora, innanzitutto incominciamo a dividere. Un conto sono delle attività strutturate, precise. Vado a fare danza, vado a fare calcio, vado a fare nuoto. E un conto è l'attività di tutti i giorni, che per i bambini vuol dire giocare. La cosa più importante è che un bambino, quando ha tempo libero, si muova, vada in bicicletta, si metta a correre e gioca a nascondino con i compagni. In morale della favola, si muova. Poi, se accanto a questo io ci metto di un'attività strutturata, per cui vado due volte alla settimana a fare nuoto, due volte a fare judo, due volte a fare basket, fantastico. Il problema però è che, se noi guardiamo i nostri bambini oggi, la maggior parte di questi bambini fanno attività strutturata. Il particolare è che la fanno per troppo poco tempo. Ecco, qual è il tempo minimo? Allora, le linee guida dicono che un bambino dovrebbe almeno svolgere un'ora di attività moderata intensa, di tipo aerobico, tutti i giorni. Che vuol dire che un bambino dovrebbe tutti i giorni fare un'ora in cui si muove così tanto da essere bello sudato. Ecco, quindi che vada in bicicletta, che corra, che faccia la lotta con i fratelli, che faccia quello che vuole, che non parta subito il non sudare, per carità, perché sennò ti ammali. Suda, suda, bambino, suda. Senta, esatto, professoressa. Questo è un indice, ne stai facendo abbastanza. Per chi invece ha qualche primavera in più, qual è la giusta attività fisica per mantenere uno scheletro sano? Allora, per mantenere uno scheletro sano, anche qua dobbiamo capire cosa vuol dire primavera in più. Perché se una primavera in più che però mi rende uno scheletro ancora sano, allora l'attività che più mi va a stimolare il metabolismo dell'osso sono le attività di impatto. Corro, cammino a passo veloce, salto. Però questo io le posso fare solo se il mio scheletro sta bene, quindi per la prevenzione, ad esempio, dell'osteoporosi. Certo. Se invece sono un po' in là negli anni, ho magari già qualche problema di riduzione della densità ossea, per non dire che ho già l'osteoporosi, allora queste attività no, sono perché troppo sono anche quelle più drammatiche, certo. Rischio di fratturarmi. Allora invece devo fare quelle attività che invece mi lavorano sul muscolo per mantenerlo più robusto, quindi lavorerò con degli esercizi di forza, ginnastica per intenderci, un po' di elastici, un po' di pesetti, esercizi di equilibrio per non farmi cadere, esercizi che migliorano la coordinazione, ad esempio ballare. Magari ballare dai. Con un'altra persona che portateci mi tiene, a ballare. Tante primavera in più, ok? È una cosa che fa divertire e che aiuta. E se poi ci aggiungo un pochettino di ginnastica, allora bene. Se sono la nipote di quella signora che ha l'osteoporosi, che fortunatamente è sana e ho 20 anni o 30, allora vado a correre, vado a saltare, vado a fare queste cose. Una domanda di una nostra ascoltatrice. Fino a che età l'osso può crescere? Mia figlia ha 15 anni. Allora, l'osso cresce per tanto tempo, diciamo che fino anche ai 18 anni un osso può crescere. Quindi il discorso è che è quello che noi abbiamo detto vale fino a quando l'osso cresce, ma vale anche dopo, per cui è molto facile. Il discorso del io mi devo muovere vale per sempre, anche perché non dimentichiamo che fa bene alle ossa, ma fa bene anche ai muscoli, fa bene al cuore, fa bene al cervello, fa bene ai polmoni. Quindi prendo non due piccioni con una fava, ne prendo tantissimi piccioni. Un vivaio di piccioni. Ma esatto. Professoressa, prima di salutarci e di andare a sederci tra i banchi della nostra scuola di risparmio, Deborah ride perché questo vivaio il piccioni, vivaio di piccioni mi è piaciuto, esatto. Tiriamo su tutti i piccioni, gabbia di tulipani, ecco, tiriamo su i piccioni di Piazza Duomo. Qualche indicazione per fare la spesa e quindi alimenti che forniscono calcio, che è un minerale che ha le nostre ossa. Il calcio che sicuramente ci serve per il nostro osso. Gli alimenti che contengono calcio sono generalmente i latticini e tutti i derivati, ma non sono gli unici, anche su alcuna frutta secca, alcuni vegetali ce l'hanno. Tornando al discorso del latte e dei latticini, l'attenzione magari è quella di preferire quelli un pochettino più magri. Certo, poi ci sono, sappiamo, perché qua apriamo un altro coperchio, ci sono poi persone che il latte non lo bevono, i latticini, quindi per chi ha fatto questa scelta, e oggi non andiamo naturalmente, ecco anche il nostro... Ci sono frutta secca o altri tipi di vegetali che danno il calcio, però il grosso è lì. Comunque, non mandorle... dimentichiamoci che ci possono essere solo su indicazione medica anche delle supplementazioni se dovesse essere necessario. E anche acque minerali che sono ricche di calcio, sì, basta controllare altri prodotti l'etichetta. Che vengono arricchiti con calcio. Va bene, grazie professoressa grazie Lucini per essere stata con noi. Buona giornata. Buona giornata, presto. Voglio che sappia, signore, che ho letto tutto di lei alla Business School e io la giudico un genio straordinario. Ho sempre sognato una cosa, fare affari con un uomo come lei. Allora che avresti in mente, amico? Perché io, mentre ti ascolto, devo monitorizzarmi la pressione. Perciò mi raccomando, non darmi scosse. Allora, chi ha riconosciuto questo brano di film Nicola Borzi? Guarda, eccolo là, Wall pronto. Wall Street, Oliver Stone, dialogo tra Gordon Gekko e Bud Fox. Esatto. Bravo! E ho preso proprio il pezzo in cui Gordon Gekko si misura la pressione, giustamente. Perché, certo. E lo abbiamo eletto oggi, nuovo uomo di cuore e denari. Perché con la vita frenetica che fa, chiaramente deve tenerla sotto controllo. E anche col consumo di alcune sostanze psicotrope. Esatto, diciamo è un personaggio un po' comunque, da analizzare, da diversi punti.